Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica a tutti. Ebbene, oggi vi porterò in viaggio, cari radioascoltatori, quindi prenderete appunti, salite in macchina e pronti, andiamo. E il mio modello, magari lo fosse stato così anch'io, è sempre stato Mario Soldati. Mario Soldati ha fatto questo meraviglioso viaggio sul Po, che viene sempre menzionato come veramente un modello che sono passati tanti anni, dagli anni 60 in poi, ma torna continuamente. E allora oggi facciamo un viaggio minore, non andiamo sul Po, ma andiamo sull'Oglio e sul Chiese, che sono due fiumi, addirittura noi ne prendiamo due. Andremo attraverso questi paesaggi, ma andremo attraverso un territorio che è ricco di prodotti, ma soprattutto di trattorie. Io ho sempre detto che tra Cremona e Mantova forse c'è un'area, un territorio molto allargato probabilmente, ma è tra le due province dove c'è il meglio della trattoria italiana, dove c'è una tradizione che continua, dove ci sono dei piatti che ancora non dico che sono gli stessi, perché sicuramente cambiano i gusti, cambiano anche il sapore dei prodotti, ma si avvicinano ancora al tempo passato. E allora continuiamo questo viaggio, anzi iniziamo questo viaggio da un personaggio importante, perché è il direttore del Parco Naturale dell'Oglio. Buongiorno a Carlo Brambilla. Sì, buongiorno. Brambilla, due ragioni per venire, per fare un viaggio nel Parco Naturale dell'Oglio. Sì, il Parco dell'Oglio Sud è un parco regionale, è stato istituito con una legge regionale e ha circa 13.000 ettari e si estende dal comune di Ostiano in provincia di Cremona fino ad arrivare a Via Dana sul Mantovano e segue tutto il corso dell'Oglio. È un parco regionale agricolo fluviale, per cui bisogna contemperare gli interessi sia dell'ambiente che anche gli interessi dell'iniziativa economica relativa agli agricoltori. Diciamo che ci sono aree, soprattutto quelle lungo il fiume Oglio, oppure quelle relative all'olio morto, cioè alle aree che un tempo erano coperte dal fiume Oglio, che poi pian piano si è ritirato, sono aree molto belle. Ve ne cito alcune che sono veramente degne di visitarle. Sì. Allora, il Parco Oglio Sud è una ZPS, cioè è una zona di protezione speciale per la direttiva uccelli, per cui ci sono fantastici uccelli con la possibilità del cosiddetto bird watching. E poi ci sono dei siti di interesse comunitario, di cui addirittura due sono riserve naturali istituite, quindi ci sono le Bine, che sono famosissime, le Torbiere di Marcaria, e poi ci sono altre zone particolarmente importanti, tipo Gerre Gavazzi Runate, oppure Bosco Foceoglio, il Valle di Mozzo. Sono tutte zone che nascono dal vecchio corso del fiume Oglio e poi sono diventate delle paludi che sono state dichiarate particolarmente importanti dalla regione Lombardia, che il parco sta cercando di tutelare nel miglior modo possibile. Bene, io ringrazio Carlo Brambilla, direttore del Parco Naturale, perché veramente ci ha messo in moto e ci ha dato anche alcune chicche da poter andare a visitare. Grazie Brambilla. Grazie a voi, grazie. E dal viaggio naturalistico ora cominciamo invece ad andare così a scoprire un viaggio gastronomico che è molto importante, come dicevo, in quest'area, un vero e proprio comprensorio. Ebbene, qui c'è un faro non solo di quest'area, ma un faro della gastronomia e della cucina italiana e forse internazionale, non senza forse, internazionale, che è Antonio Santini, dal Pescatore di Canneto sull'Oglio. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Io so che tu ami molto il tuo territorio, non solo, posso anche raccontare che la prima volta che sono venuto da te tanti anni fa, la prima cosa che mi hai fatto scoprire è un museo, di cui poi parleremo, un museo del fiume, un museo molto particolare, quindi questo mostra il tuo attaccamento a quest'area. Antonio, io volevo chiederti, ecco, come potresti, se uno viene nel tuo territorio, secondo te quali sono i piatti che deve sentire per scoprire la vostra realtà? Certo, allora io sono il pescatore ubicato nell'oasi del Parco dell'Olio, nella riserva naturale, una zona che a mio nonno stava particolarmente a cuore, essendo lui un pescatore. Aveva comperato un pezzo di terra dietro il fiume, che era poi una lanca, e adesso è diventata riserva naturale. Di questo andiamo molto orgogliosi. Quindi diciamo che prima di sedersi a tavola si può allungare l'occhio e vedere una cosa fantastica. Certamente. Il nonno cominciò questa attività pescando sul fiume da pescatore e la nonna cucinava. In questo momento devo dire che i fiumi italiani sono tutti un po' in sofferenza, e quello che mi sento di dire è che dovremmo fare molto e fare di tutto quanto ci è possibile per riportare i fiumi allo splendore che avevano un tempo. Questa sofferenza delle acque l'abbiamo, se vogliamo, ereditata, o l'abbiamo costruita noi, e per cui dovremmo lavorare a questo punto per riportare i pesci nelle condizioni di poter essere, di poter tornare sulle tavole. In questo momento credo che possiamo dire tranquillamente che i pesci non possono andare sulla tavola. I ristoranti importanti o i ristoranti che sono diventati importanti, molti di questi sono sul fiume. L'Auberge de Ville, il Lozen in Francia, o Paul Bocuse, o moltissimi ristoranti. Waterside a Londra. Esatto, certo. Tutti i ristoranti che nascevano sul fiume, perché il fiume è fonte di vita, è fonte di ricchezza. Ecco, noi dovremmo ricostruire questo messaggio. La cucina intorno al fiume è una cucina ricca, una cucina che permette di variare nella cultura gastronomica, che va dal pesce alle verdure alla frutta. La Campania è ricca di tutte queste cose, insomma. Bene, grazie Antonio Santini, grazie dal pescatore di Canette sull'Olio. E allora continuiamo questo viaggio, e con me qui a sedere vicino in macchina ho Federico Malinverno. Federico Malinverno abita a Isola Dovarese, lavora nel ristorante di famiglia, anche se ha girato un po' il mondo tra tanti chef, e ha studiato a fondo, quindi è in grado di condurci molto bene anche con degli aspetti culturali. Buongiorno Federico. Buongiorno Davide. Il ristorante è Caffè La Crepa, e voglio subito dire che la piazza di Isola Dovarese, dove c'è questo caffè, è una delle piazze più belle d'Italia. Peccato che in questo paese non si abbia cura di questa realtà. Se fosse in Francia, credo che sarebbe stata riabbellita immediatamente, chissà quanti visitatori avrebbe. Comunque, cominciamo ora, facciamo pubblicità a questa piazza, a questo comune Isola Dovarese, per far arrivare dei turisti interessati al panorama architettonico. Federico, bene, Isola Dovarese, partiamo dal tuo comune, partiamo dalla tua città, chiamiamola così, anche se quanti abitanti ha? Poco più di 1200 circa. Ecco, il Caffè La Preca nasce? Nasce nei primi dell'Ottocento, almeno dalle carte che si sono ritrovate nell'archivio comunale, nasce in quel periodo, forse qualcosina prima, però non abbiamo documenti che lo certificano. Ecco, si chiama caffè, però di fatto è un ristorante, ha avuto un'evoluzione nel tempo. Sì, ha avuto un'evoluzione. Diciamo che la mia famiglia l'ha preso in gestione nel 1969, ha cominciato mia nonna, mio papà e mio zio e mio nonno Giuseppe, e poi da lì pian piano hanno aggiunto nel 74 l'enoteca, vendita di vino al dettaglio, all'ingrosso, prodotti gastronomici e quant'altro, e per poi arrivare alla gelateria nel 76, e poi con lo stappare le bottiglie dell'enoteca dai primi wine bar fino a quella che è oggi una realtà, dove nelle tre carte, la carta dei dessert, la carta dei vini e il menù, sono sintetizzate l'osteria, l'enoteca e la gelateria. Bene, ora andiamo molto vicino, perché andiamo a Cicognolo, che è in provincia di Cremona, e andiamo a trovare Diego Luccini, che è patron dell'osteria dell'Umbrelaire, nonché un grande produttore di mostarda. Ma prima di parlare di mostarda, ci faremo raccontare qualche ricetta intrigante, un po' la tradizione. Voglio chiedere a Luccini, ma come mai si chiama osteria dell'Umbrelaire? Buongiorno, allora, Olcini. Buongiorno a tutti. Osteria dell'Ombrellè perché il nonno, che è il fondatore dell'osteria, finita la guerra, nell'immediato dopoguerra, gestivano un'osteria con mia nonna. E siccome allora i tempi erano abbastanza duri e c'erano 7 figli da sfamare, il nonno si era ingegnato e girava d'estate vendendo ombrelli, riparando ombrelli appunto, e vendeva casalinghi, faceva d'inverno invece faceva il norcino e andava nelle varie cascine, preparava salami e cotechini. Quindi si arrotondava lo stipendio per poter mantenere la famiglia. Senta Lucini, lei è un ottimo produttore di mostarda cremonese. Sì, cremonese. Noi siamo sulla strada che va da Cremona verso Mantova, a 15 km da Cremona, Cicognolo. E abbiamo questa produzione di mostarde artigianali, produciamo la classica cremonese, quindi di frutta intera, candita. È una canditura da frutta fresca, usando frutta selezionata da noi, e poi inoltre produciamo altre tipologie di mostarde, come di cipolle, di zucca, di frutta, di fichi, di pomodori verdi, pesche, ananas e quant'altro, insomma. Senta, produciamo 15 referenze, quindi sono tante. Lucini, senta, ultimamente sembra che la mostarda, anche con il bollito, magari fuori Cremona, fuori Mantova, non abbia più grande successo. Secondo lei dipende dalla senape, che la gente non ama più questi gusti forti? Sì, forse un po', sicuramente, diciamo che la senape è un gusto che diciamo è apprezzato più che altro nel nord Italia, quindi nel Veneto, nella Lombardia. Più ci addentriamo verso il centro Italia, al sud, è un gusto che forse non è molto gradito. Però allora, le nostre tipologie sono delle mostarde molto particolari che partono da un frutto fresco e quindi si portano un bagaglio aromatico del frutto e quindi non hanno solo questa caratteristica, diciamo, senapata, ma hanno un aroma e un bagaglio aromatico molto complesso. Ecco, ci faccio degli esempi dei piatti che lei serve al suo ristorante accostati con la mostarda. Ma noi facciamo la faraona arrosto, ad esempio, che viene abbinata con la mostarda di mele e pere, facciamo il classico bollito cremonese con cotechino, lingua o salmistrato fresca, la testina di vitello, la carne di manzo, e lì mettiamo sempre comunque delle mostarde classiche come una mostarda di pesca oppure di albicocche oppure di ananas e quella classica cremonese, oppure con i formaggi, e quindi qua c'è un abbinamento, diciamo, un po' più che da poco si usa un po' questo abbinamento qua delle mostarde con i formaggi, però sono molto apprezzate, quindi con tutti i formaggi sia arborinati che o stagionati, ma anche con formaggi freschi, anche col mascarpone molto buono. Eh sì, col mascarpone direi proprio di sì. Senta Lucini, mi dica un piatto che le è rimasto del nonno, che è rimasto in trattoria del nonno, c'è ancora un piatto? Ma noi facciamo lo stracotto d'asino con la polenta, che è un piatto, diciamo, tipico un po' della bassa cremonese, insomma si trova in parecchie osterie qua nel circondario, ed è uno spezzatino di carne, di asino, di muscolo di asino, che viene stufato con delle verdure e del vino rosso. Bene, io la ringrazio. Diego Lucini, Osteria dell'Umbrellè a Cicognolo, provincia di Cremona. Grazie, a presto. E nella regia torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Bene, continuiamo questo viaggio in auto con a fianco Federico Malinverno del Caffè La Crepa e con la musica accesa, appunto, mentre si va in macchina, si guarda il paesaggio, si ascolta anche la musica. Ma abbiamo cominciato questo viaggio da Isola Dovarese, abbiamo fatto un salto a Cicognolo e ora andiamo ad Asola in un caffè storico. Buongiorno a Luigi Di Girolamo. Buongiorno Luigi. Buongiorno a voi. Gran Caffè Liberty. Luigi, che storia ha questo Gran Caffè Liberty? Perché io ricordo di averlo visitato, mi sembra, insomma, che sia attempato, che sia nella storia. Ma sì, noi abbiamo un caffè meraviglioso del 1915, creato dall'amministrazione comunale. Si trova sotto un porticato nella piazza centrale, un porticato del 500. Spicca davanti a noi una bellissima fontana di Ercole. Abbiamo un allestimento con una boiserie originalissima, specchi, lampade, tessuti, ottoni. Abbiamo dei vetri piombati meravigliosi. Il locale è veramente bello, conservato. Senta, ma molte volte si dice di una chiesa grande devozione, cioè grande chiesa, poi poca devozione. Ma lì si mangia bene? Qui si mangia bene, sì. È come chiedere all'osso se il vino è buono. Lo so. E qual è la specialità? Ma guardi, noi siamo nella specialità il pesce di mare, perché è una nostra così passione. Naturalmente abbiamo anche una piccola riserva per la tradizione, dove c'è l'agnello e il tortello prodotto da mia moglie e mia suocera, e mi creda che veramente vale la pena di essere valutato, assaggiato. Poi il pesce di mare, io faccio i mercati tutti i giorni. Ecco, dove va a fare i mercati? Si mangia la... Ma guardi, io i mercati li faccio da Milano o altrimenti su Linate, perché abbiamo dei fornitori che ci spediscono il pesce su Linate, poi abbiamo l'incrocio o su Parma o su Desenzano, e abbiamo il pesce della Sardegna, che è veramente, ma veramente importante. Quindi avete una carta appunto di pesce nazionale. Ma io voglio chiedere a Federico, sì. Federico Malinverno, che è qui con noi, voglio chiedere, ecco, invece, per tornare, non abbiamo parlato dei piatti della tua cucina, del tuo ristorante, lì siamo nel pieno della tradizione. Sì, lì si cucina i piatti, le carni del territorio, nel senso che portiamo avanti gli animali da cortile. Facci qualche esempio di piatti. Non so, la faraona alla creta, hai citato prima Mario Soldati. Lui, Mario Soldati, quando Mario Soldati entra in Cremona nel viaggio nella Valle del Po, appunto incontra la faraona alla creta. Faraona alla creta è un piatto che noi riproponiamo ancora, e che ad oggi anche a Cremona è quasi scomparso, o meglio, Cremona non ha saputo valorizzarlo bene come altre realtà italiane, piuttosto che quello che possono essere i pesci d'acqua dolce provenienti sia dai laghi, dal lago di Garda, piuttosto che dal lago di Iseo, con i salmiarini, le trote, il luccio, le anguille, e così. La tradizione era quella del fiume. Purtroppo adesso il fiume non è molto utilizzabile per via di diversi motivi, tra cui l'inquinamento, anche se adesso le condizioni stanno leggermente migliorando. Proprio domenica un pescatore del posto ci ha portato 5 kg di quella che è l'acquadella, l'ambolina. Ecco, volevo chiederti, ma io, se ben ricordo, a Canneto sull'Oglio c'è un museo del fiume. Sì, il Museo del Fiume è consorziato, è un consorzio che è distribuito in tutto il nostro distretto gastronomico a paesaggi di confine, e ci sono varie sedi. C'è sia a Canneto l'Ecomuseo delle Valli Oglio-Chiese, appunto, che l'Ecomuseo anche a Isola Dovarese, sulla civiltà contadina e sulle tradizioni locali. Sono consorziati entrambi. Se si cerca appunto Ecomuseo si trovano questi riferimenti e si riscoprono queste realtà, gli antichi usi. Ecco. Quindi paesaggio, cultura e cibo. Ma torniamo a Luigi Di Gerolamo. Luigi, visto che lei, diciamo, ha una cucina tutto basata sul pesce di mare, se ho ben capito, niente pesce di fiume? Niente pesce di fiume. Ho capito. E allora la carta dei vini, siamo tutto spostato sul bianco, sulle bollicine, a differenza del resto dell'area che è prevalentemente così, che si accosta prevalentemente col rosso. Sì, ma guardi, la cantina è per le grandi etichette italiane sicuramente spostata prevalentemente sui vini bianchi. Poi io sono un appassionato, per cui ho tutta la grande selezione dei grandi rossi italiani e francesi. Ecco, una grande attenzione anche alle etichette francesi. Ho capito. Ma invece alla crepa c'è una grande attenzione ai vini biodinamici, vero? Sì, allora a Liberty si trovano tantissimi Franciacorta. Questo è bello perché è un bellissimo collegamento con il territorio, perché la Franciacorta è una delle zone più vicine a noi, quindi lui riesce a mescolare bene quello che è il territorio con il suo stile di cucina. Noi portiamo avanti un discorso di vini naturali, di leggermente diverso, di piccole produzioni, appunto, come si diceva, che si sposa con quelle che sono le carni piuttosto che i pesci d'acqua dolce, che anche i pesci d'acqua dolce, non avendo la salinità del pesce di mare, possono abbinarsi molto bene anche a un vino rosso, magari a un groppello del Garda piuttosto che a un chiaretto, sempre un chiaretto del Garda, o talvolta anche a un lambrusco, semplicissimo lambrusco mantovano, ecco, per dire. Senta Luigi, uno che viene ad Asola dopo che ha mangiato da lei, cosa c'è da vedere in questo piccolo centro? Bah, guardi, abbiamo una cattedrale meravigliosa che è dell'anno 1200, con degli affreschi del romanino. Ci sono dei pezzi veramente importanti, un organo maestoso, è sicuramente una bella cosa. La nostra fontana penso sia una delle più belle fra le piccole fontane d'Italia. Io ho un architetto delle belle arti sulle fontane che passa da noi e mi dice sempre: guarda, una fontana meravigliosa, voi non vi rendete conto, ed è veramente una bella cosa. Poi le cose da fare ad Asola possono essere diverse, insomma, ecco, c'è chi ama il fiume, c'è chi... Ecco, il turismo arriva tutto l'anno, il turismo. Guardi, noi non siamo in una zona per il turismo, però ecco, si è mosso qualcosa, la ricezione turistica è data anche dall'intervento dei locali, quindi il richiamo delle cucine, il richiamo dei territori che oggi si sta sempre più valorizzando, per cui grazie anche a questo tipo di iniziative. Voglio tornare a Federico. Federico, ma i fiumi, il Chiese e l'Oglio, sono navigabili? Navigabili non so, sono navigabili nel vero senso della parola non credo, nel senso che sicuramente l'Oglio, barche a motore con una certa potenza non possono andare. Comunque si possono, ci sono tante persone che lo fanno con le canoe ed è veramente bellissimo, cioè cambiare il punto di vista per osservare la natura dal fiume, invece che di solito vediamo l'acqua ma non vediamo dall'acqua, è proprio molto molto bello, tant'è che ci sono degli scali, si possono fare tranquillamente, ci sono quasi ovviamente piano. Mentre questo per quanto riguarda il fiume Oglio, per quanto riguarda il fiume Chiese invece è quasi più per gli appassionati di canyoning piuttosto che di kayak, perché è più torrentizio come fiume, mentre l'Oglio ha già più la portata di un grande fiume. Ecco. Insomma, è un'area dove si può fare di tutto. Lì nella regia torneremo fra poco, rimanete con noi. Diceva Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Indovina chi viene a cena, si occupa di identità e preconcetti, in cucina come negli incontri che facciamo. Ogni settimana ospitiamo un italiano con radici altrove che racconterà la sua storia anche attraverso un piatto. Fra couscous e risotto intorno ai fornelli si parlerà di contaminazioni e false credenze verso il cibo e non solo. You've got to... Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 23 con Indovina chi viene a cena. E quest'estate anche la domenica alle 13.30. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo in marcia, siamo stati ad Asolo, siamo stati a Isola d'Ovarese, siamo stati a Cicognolo. Ebbene, ora andiamo a Canneto sull'olio. Andiamo a Canneto sull'olio e devo dire, qui faccio una fermata e faccio una parentesi, perché a Canneto sull'olio, anzi sulla frazione di Canneto sull'olio, c'è un luogo molto importante dal punto di vista gastronomico ed è l'Osteria del Pescatore, ovvero sia il locale della famiglia Santini, che per questa area certamente costituisce un richiamo di turisti, ma è un richiamo anche per l'Italia, perché è un ristorante conosciuto in tutto il mondo, tristellato, ma conosciuti anche la famiglia, molto conosciuti in Francia e in giro per il mondo. Quindi è una zona sicuramente molto importante, come ho detto prima, una zona ricca di trattorie, ma anche un ristorante importante, che quindi fa un po' da luce e da faro, e non credo che gli altri ristoratori per questo si sentano magari in, come posso dire, trascurati, è vero Federico Malinverno? No, tutt'altro, loro sono un forte richiamo per la nostra terra, sono quelli che hanno stimolato tutti, sono convinto tutti noi a fare bene, anzi a fare meglio. Se pensiamo che è uno dei ristoranti al mondo che detiene le 3 stelle Michelin più di tutti, quasi più di tutti gli altri, perché le ha veramente da un sacco di tempo, forse addirittura già più di 20 anni, se non mi sbaglio, o sui 17-18, proprio veramente, se pensiamo ai grandi nomi, il Gran Ferrano Adriale le ha avute per 16, no? Se non mi sbaglio. Quindi ci stiamo parlando veramente di un forte richiamo e del faro del porto. Sì, poi diciamo anche questo, che è un ristorante che ha sempre portato avanti una tradizione del territorio con i prodotti del territorio, quindi questo è stato anche un fatto clamoroso quando furono assegnate le 3 stelle, perché i francesi sono sempre stati molto sciovinisti e di fronte a un localismo così spinto come questo magari molti pensavano che non l'avrebbero riconosciuto, invece lo hanno riconosciuto e continuano a riconoscere. Vuol dire che il territorio però è anche ricco di cultura e ricco di prodotti, e allora a Canneto sull'Olio c'è una macelleria, la macelleria di Massimiliano Zani. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a voi, buongiorno. Lei è un fornitore di Casa Santini? Sì, sì, sì, è stato il mio primo cliente. Ah beh, quindi insomma, è molto esigente? Ma è un professionista, per cui essendo un professionista conosce molto bene la materia. Quindi quando viene in bottega, insomma, lei si deve mettere sull'attenti. Ma io non è che si metta proprio sull'attenti, perché la materia prima è di qualità, per cui grosse problematiche non ci sono. Sa quello che vuole comunque. Ecco, il bestiame dove arriva nella sua macelleria? Da dove? Dal territorio? Allora, principalmente in una stalla qua a Canneto sull'Olio, in una frazione di Canneto che si chiama Bizzolano, dove vengono allevate delle fassone piemontesi. Quindi fassone di razza piemontese. Piemontese, poi sì. Le macella lei o vanno a macellare? Sì, le compro vive, le faccio caricare e poi le porto in un macello autorizzato per la macellazione. Ho capito, ma senta, ma nella sua zona tutti usano il quarto posteriore, nessuno vuole il quarto anteriore? No, qua ci sono ristoranti che usano ancora il quarto anteriore, dalla crepa alla trattoria dell'alba, al pescatore stesso. Ecco, alla crepa cosa fate con il quarto anteriore, con la parte anteriore, quindi quella che diciamo è la parte che viene, che al macellaio rimane sempre indigesto, perché ormai in questo paese tutti vogliono la parte posteriore, nessuno vuole il grasso, tutti vogliono il filetto, i tagli pregiati, voi cosa ci fate? Ma tante volte ci consigliano il bello di avere un macellaio come Zani, è proprio che lui stesso ti consiglia come utilizzare la sua carne, questa è una cosa... Ah, quindi Zani, lei è anche un cuoco allora a casa? Cucina? Poco, quando ho tempo sì. Ecco, però sento che dispensa consigli di cucina, quindi... Ma conoscendola dipende sempre dall'animale, come è strutturato l'animale, se c'è grasso, se non c'è, in base a quello poi si può dire come usare. Ad esempio, se ci sono delle punte di petto belle grasse, si può usare a fare del brodo, del lesso, si possono fare mille tagli comunque. Senta, i filoni li utilizza qualcuno? No, qualche animella, ma poco. Trippa? Trippa sì, nella stagione invernale va molto. Guanciale, sono abbastanza richiesti. Bene, rimanga con noi Zani, perché ora andiamo in provincia di Mantova, a Commessaggio. Commessaggio dove c'è una produttrice di vino, una nota ormai produttrice di vino. Buongiorno a Mimma Vignoli. Buongiorno. Buongiorno. Azienda agricola Corte Pagliari Verdieri. Bene, io ho bevuto il Lambrusco di questa signora un po' di anni fa e rimasi veramente colpito. Ho anche scritto diverse cose su questo Lambrusco mantovano. Ecco, signora Vignoli, molti non pensano che esista il Lambrusco mantovano, ma esiste come, vero? Esiste il Lambrusco mantovano ed esiste la zona, la sottozona del Lambrusco viadanese, nella zona di Viadana, Viadana, Commessaggio, Sabbioneta. E quindi io principalmente produco Lambrusco viadanese con uve Lambrusco viadanese. Senta, ma mi dica la verità, c'è differenza tra la sottozona viadanese e invece il Lambrusco mantovano? È differenza perché nel Lambrusco viadanese, a parte che io lo utilizzo in purezza, quindi al 100% uve Lambrusco viadanese, ma il Lambrusco viadanese della sottozona deve essere ottenuto mi pare con almeno il 75-80% di uve viadanese, e quindi non si possono utilizzare gli altri vitigni di Lambrusco. Ecco, io se ben ricordo lei ha un procedimento biodinamico nella sua produzione. Io faccio biologico. Biologico. Faccio agricoltura biologica ed è stata la nostra scelta di vita, perché vivevamo in paese e quando siamo andati in campagna venendo a mancare mio suocero abbiamo deciso dal 1994, a dire la verità un anno dopo, di fare agricoltura biologica proprio per vivere in armonia con la natura. Quanto costa una sua bottiglia? Ecco, la mia bottiglia costa, riusciamo a contenere abbastanza i costi perché lavoriamo noi, dunque sfrutto spudoratamente i figli, mia sorella, mia mamma, quindi Anche sua mamma, sfrutta anche sua mamma. Anche mia mamma in vendemmia, certo, mio papà no perché cammina piano e un po' deambula con fatica. Però insomma viene mio zio, facciamo una cosa in famiglia. Quindi avendo solo 3 ettari di vigneto ci riusciamo, contengo i costi e lo vendo 4 euro a bottiglia. Senta, ma lei produce solamente Lambrusco mantovano oppure anche altre produzioni? Ecco, io produco il Lambrusco viadanese e produco anche il Lambrusco viadanese frizzante, rifermentato in bottiglia, certo, quindi con la spresa di spuma naturale in bottiglia, e produco anche un Lambrusco fermo, principalmente con Lambrusco salamino, Sabbioneta Rosso IGP, e questo lo teniamo un anno in un tino botte di legno, sono 2100 litri, quindi una piccola quantità, e perde tutti gli zuccheri, rimane fermo e secco. Non profuma di legno, ma si affina in questo tino botte. Bene, rimanga con noi che torno da Zani perché voglio farmi raccontare un po' dei tagli, quelli appunto che lui consiglia. Senta, Zani, dal muscolo della bestia, lei consiglia qualche piatto particolare? Ma guardi, si può utilizzare sia per dei buoni lessi, dei buoni brasati e anche degli arrosti, perché macellando esclusivamente femmine la carne ha una fibra molto fine, per cui rimane molto morbida anche per un arrosto. Quindi femmina, e quindi diciamo cos'è, la sesta costola, quella data per la bistecca di femmina, così si dice? Così dicono? No, sì, sì. No, beh, di solito la femmina, essendo un animale innanzitutto più piccolo, ha fibre più corte, tendenzialmente fa più grasso, per cui porta la carne succulenza. Il maschio invece, essendo più enorme, più grosso, ha una fibra molto più lunga, in quanto poi non rimane così succulento e morbido. Ecco, siccome fra poco i nostri radioascoltatori si accingono ad andare a pranzo, mi dia la ricetta dei tagli per il bollito, per il brodo e il bollito. No, il bollito, perché il brodo è un'altra cosa, quindi partiamo dal bollito. Mi dia i tagli, quanti? 5, 7 o 9? Allora, i tagli partono dalla punta di petto, il bianco costato. Sì. al briore di spalla, al cappello del prete, alla fesa di spalla, il muscolo di spalla. Qui siamo arrivati in fondo. Sull'anteriore. Su invece qualche pezzo del posteriore lo mettiamo? Posteriore esiste, cioè si può usare sia per brodo o per brasato il muscolo del posteriore o addirittura il pesce o il campanello. Guardi, mio nonno, che era un macellatore, un commerciante di carni, voleva obbligatoriamente mettere nel bollito la coda. Lei cosa ne pensa? Diciamo che è uno dei lecci più buoni che ci sono. Va bene. La coda, va bene. Sì, la coda e guanciale, diciamo che rimangono molto, è un piatto molto succulento. Magari ci possiamo mettere anche un osso di ginocchio per poi avere il bollito e avere il brodo. Bene, sul brodo, sulle ali del brodo e del bollito, lì nella regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Terra di bolliti, terra di piatti tradizionali, ma anche terra di salumi molto particolari. E allora andiamo da Valentina Santini del Salumificio Santini. Buongiorno, buongiorno Valentina. Buongiorno. Buongiorno. Senta, quali sono i salumi tipici del suo territorio che voi producete? Beh, allora, essenzialmente il salame, nelle sue diverse forme, che può essere il salame Cremona, IGP o il salame mantovano, e poi il cotechino, essenzialmente, come prodotti della tradizione. Senta, che differenza c'è tra il salame mantovano e quello cremonese? Allora, diciamo, essenzialmente la differenza è basata sull'intensità dell'aroma di aglio, diciamo, del sentore aglio. In particolare il mantovano è più accentuato in questo aspetto. E inoltre nel salame mantovano è presente una quantità abbastanza grossa di vino rosso, che sostituisce gli antiossidanti, diciamo, messi chimicamente nel salame, e appunto sotto forma di antociani presenti nel vino sostituiscono la proprietà antiossidante degli antociani. E inoltre questo salame mantovano è senza zuccheri aggiunti, quindi è proprio come si faceva in casa tradizionalmente 50 anni fa, ecco, voler ripercorrere queste tradizioni della bassa mantovana. E della vostra famiglia, mi dicono, vero? Esatto, sì, è legato ancora alla ricetta tradizionale, questo anche per il salame Cremona, però diciamo che il salame Cremona non ha questa caratterizzazione forte di aglio e di vino, ma è un po' più delicato, ecco, come sapore. Bene, grazie Valentina Santini. Avete sentito le differenze di due salami che sono riconosciuti tra i migliori in questo paese. Ma dal salame, dai salumi, andiamo ai formaggi, perché sono essenziali. Un fine pasto senza un provolone in questa zona probabilmente non si concepisce. Vero Luca Grasselli? Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. E allora, questo formaggio, questo provolone è caratteristico di questa zona, appunto, tra i fiumi Oglio e Chiese? Certo, il provolone è un grandissimo formaggio e abbiamo cercato di ritornare a questa tradizione facendolo in una maniera particolare, certificato biologico, vacche brune alpine al pascolo, e il pascolo in pianura è una cosa che si faceva 60 anni fa e adesso non si fa più, lo cerchiamo di riprendere, filato a mano, lavorato a mano, questa lavorazione artigianale cerchiamo di fare. Senta, il provolone si mangia sia abbastanza fresco che con lunghe stagionature. Secondo lei qual è il miglior modo per mangiarlo? Allora, sicuramente stagionandolo dal meglio di sé, perché usiamo il caglio di capretto, una pasta, un caglio in pasta, e dà una caratteristica, molti più enzimi, quindi da questo senso di piccantezza dopo i 2 mesi di stagionatura, e è davvero al suo massimo splendore dopo un paio di mesi, anche 3. Ecco, lei produce solo vaccini, formaggi vaccini o anche capra e pecora? No, noi abbiamo le vacche, abbiamo 20 vacche in mungitura, 14 ettari di pascolo turnato, quindi ogni 3 giorni spostiamo le vacche di appezzamento, in modo che facciano loro il lavoro per noi, mangiano, fertilizzano il terreno e noi le assecondiamo in questo lavoro. Quindi avete l'intera filiera voi sotto controllo? Noi sì, a partire proprio dal fieno, lavoriamo il campo per il fieno, chiediamo alle vacche, dopo loro mangiano una grande quantità di erba fresca, le mungiamo, trasformiamo tutto il latte in formaggio, una decina di tipi, e vendiamo tutto direttamente. Bene, la ringrazio. Grasselli Lago Scuro, azienda di Lago Scuro a Stagno Lombardo, sempre in provincia di Cremona. Quindi continuiamo a viaggiare, ma ora andiamo in un posto che era anche famoso dal punto di vista musicale. Andiamo a Piadena alla trattoria dell'Alba, da Omar Bertoletti. Buongiorno Omar. Buongiorno a lei, buongiorno. Ma il duo di Piadena non c'è più? I duo di Piadena esistono ancora, sono ancora vivi, però non suonano più come era anni fa. Fanno ancora qualche kermesse, chiamiamola così, in feste locali, ma però non sono più attivi. Vi hanno dato notorietà comunque, molta notorietà il duo di Piadena. Parecchia, parecchia. Ancora tuttora arrivano clienti, posso proprio dire, da tutta Europa, che si ricordano questi due personaggi fantastici. E tuttora sono ancora in mente con la famosa canzone Lua Fogarina, appunto. Ma lei la serve ancora in qualche maniera, Lua Fogarina? Basta, l'uva fogarina, poi alla fine io penso che sia nient'altro poi l'uva fragola, l'uva il certo. E qualcosina attorno si trova ancora, sì, qualche bottiglia si riesce ancora a trovare ed è molto piacevole, molto fresca. Omar, se arriva un turista nel suo locale e le chiede mi serva dei piatti della tradizione, lei cosa gli offre? Innanzitutto la tradizione fortissima nostra. Abbiamo appena sentito due produttori fantastici, salumi e formaggi. I salumi non possono mai mancare sulle tavole delle trattorie tipiche locali. Ma soprattutto, secondo me, quella che fa la parte del leone è la pasta fatta in casa. I tortelli di zucca, i marubini ai brodi, il sorbir di marubini mettendo il vino lambrusco nel brodo, e i piatti di frattaglie, le trippe, i fegati, i cuori, cucinati in minestre e anche come secondi. E poi i bollitimisti con le mostarde e le salsine. C'è da divertirsi, c'è da spaziare proprio. Senta, marubini sarebbero l'equivalente dei cappelletti? Degli agnoli mantovani. Ah, degli agnoli mantovani. Degli agnoli mantovani. Vengono fatti rigorosamente a mano, con il ripieno di stracotto di manzo, impastato con le uova, il buon parmigiano. Io uso ad esempio il parmigiano reggiano mantovano, quella della plaga del basso mantovano, dove il Secchia, che fa il confine, non il Po, che è una piccolissima produzione, oppure il Grana Padano. Quindi questa enclave ha scoperto che il parmigiano ha delle qualità diverse dall'altro? Sì, viene fatto in maniera differente, con solo finagione, non con silati, quindi hai una qualità superiore assolutamente di formaggio. E c'è questa basso mantovano, la zona di Suzzara, dove viene proprio citato, viene fatto il parmigiano reggiano mantovano, che è questa piccola plaga, ed è ottimo. Ed è si usa come ripieno per i marubini. I marubini vengono fatti singolarmente uno a uno, chiudendoli sul dito. Ecco, perché si chiamano marubini? Ma qui ci sono varie spiegazioni, una giusta secondo me non è ancora stata trovata. Uno dice, si sembrava che la pasta si amasse insieme e allora veniva chiusa chiudendola e amandola, come facendo proprio il giro attorno al dito e schiacciandola, come un po' l'ombelico di Venere, e sarebbe il termine da amarubino, ho capito. Amarubino. Bene, Trattoria dell'Alba da Omar Bertoletti di Piadena. Ora chiudiamo con, diciamo, un qualcosa di vegetariano, perché abbiamo parlato di salumi, abbiamo parlato di carni, insomma abbiamo parlato sempre in questa direzione, e andiamo da Ilaria Gremizzi, dell'azienda agricola Gremizzi. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a tutti. Mi dicono che siete presenti all'Expo nel padiglione del Belgio, vero? Sì, nel padiglione del Belgio e nel Future Food District della Coop, Vertical Farm. Ecco, con cosa siete presenti? Siamo presenti con le nostre produzioni di ortaggi, principalmente insalate. Insalate di tutti i tipi o avete delle insalate molto particolari? Insalate di tutti i tipi e di molto particolare, nato nel 2012 proprio nel territorio mantovano, quindi tra Asola e Guidizzolo, collaboriamo con la Sempre Fresco, che è un'azienda che fa un prodotto, diciamo, molto nuovo in Italia, innovativo, che è l'insalata in fuorisuolo. Produce un tris di insalate, che sono tre tipi di insalate diverse, con colori diversi, quindi si parla di, non so, foglia di quercia rossa, gentile verde e l'ollo bionda, e tutte all'interno di uno stesso cubetto. E la cosa ed innovativa e che vengono prodotte, come dicevo, fuori suolo, quindi in canaline dove viene fatta passare dell'acqua con sostanze nutritive che nutrono la pianta. Viene coltivata utilizzando la tecnica della lotta integrata, quindi con insetti utili che contrastano quelli nocivi, e inoltre con residuo zero di Bene. Tutti i prodotti chimici. Bene, grazie a Ilaria Gremizzi, azienda agricola Gremizzi Sergio ad Asola. Questo viaggio è concluso, l'abbiamo concluso appunto parlando di verdure, che mi sembra che questi ristoratori però di questa zona di verdure ne usino ben poche. Bene, grazie a Federico Malinverno che ha fatto questo viaggio assieme a me e ci ha aiutato a scoprire anche dei luoghi magari poco conosciuti, e grazie a chi era in ascolto. Io vi do appuntamento la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Buon pranzo a tutti, e credo che vi abbiamo messo un po' di acquolina in bocca. Un saluto, un caro saluto da Davide Paolini.